non mi ricordo, c'era una strada a destra, percorrivi sempre dritto dritto e poi a destra di nuovo. Io là sono andato due volte a mangiare con gli amici e praticamente c'era un menù fisso, ti dava di tutto, dall'A alla Z, poi una cazzata, 35 euro mi sembra, gioca grossa, poi ti dire niente, di tutto. Era un bel buono. Guarda, io ne ho girato tanti di posti, ho portato amici miei sia dell'estero che amici dal continente, e questi continenti sono grandi mangiatori che quando vengono in Sardegna cercano sempre posti strani. Mi hanno detto in vita loro non hanno mai mangiato bene come quel posto, 35 euro. A parte mangiare bene, che uno può dire mangi bene da tutte le parti, la qualità del servizio, la qualità del posto, è un posto spettacolare, anche per i bambini c'è il parco, ci sono tutti gli animali, quelli che c'hanno loro. Una pulizia, uno di tutti i camerieri professionisti, e costava, io sono andato l'anno scorso, ci vado diverse volte in quel posto lì, 35 euro a persona, ma la roba te ne esce dagli occhi, ti fanno crema di coso, di olive, marmellata di coso, tutte cose fatte da loro, le seadas, le tiricchie, qualunque tipo di cose, e poi ti vendono anche, se la vuoi te la vendono la roba, ma è un posto spettacolare, una pinnetta gigante, fatta in scala proprio grande, poi io sono andato molte volte d'estate piena d'agosto, che c'è un caldo fuori da morire, di dentro non c'è uno spiffero, c'è la temperatura come quando entri in quei locali dove è tutto perfettamente regolato, c'è la temperatura, l'umidità, non c'è, molte volte in certi punti c'è il ventilatore a manetta, l'aria condizionata a manetta, qua entri dentro, temperatura perfetta. Poi non parliamo della qualità del mangiare, non ce n'è, io carne non ne mangio quasi niente, ma questi qui si sono leccati i baffi, alla fine da parte mia ci sono fatti fare il pacco, ti danno il pacco e te lo porti via, del porcetto, dice io non ho mai mangiato il porcetto così, gente che non ha mai mangiato le lumache, i lumacconi, dice io non le ho mai mangiate, però adesso da oggi inizierò a mangiare i lumacconi. Sì, comunque confermo mille per mille, io ci sono andato con delle amiche mie e poi con gli amici miei, i colleghi di lavoro, e dirò è un servizio che i camerieri ci vengono là e versano il vino là, servizio tocco proprio, mi piace molto, infatti ci sono arrivato perché è un bel posto. Sì, è stupendo, chi non ci è andato ci vadi perché rimane soddisfatto, avanti già. E allora ti do re. Guarda, io ho già detto, lo dico per esperienza, io sono molto schizzinoso nelle cose, ma di lì mi stava venendo voglia di mangiarlo il porcetto, io non ne mangio, manco a vedere, però mi stavano qua, prendilo, però la cosa che ti piace più di tutti sono gli antipasti, cosa ti fanno di antipasti già, di cose tutti, a parte gli affettati prodotti da loro, ma ti fanno queste creme di carciofi, crema di olive, crema di non so cosa, cioè tante di quei gusti, questi affari di formaggi, gusti tutti particolari, ma ci saranno 20 tipi di antipasti. Ma sono tutti assaggini che te ne portano l'uscita negli occhi, poi ti fanno per dire la pasta con il finocchietto oppure con l'erba cipollina, cioè cose che trovi di lì nella campagna, ma tu assaggiare poi ravioli, una cosa mostruosa, fatti da loro, tutta la roba prodotta da loro, poi ti portano il vino, te lo versano appena appena, te lo fanno assaggiare, vino tutto coso, se l'è mosca, vini anche di qualità c'era, e poi non costa niente, cioè io sono andato in altri posti che si mangia bene anche da Vito, niente da dire, cacchio, però spendi due volte tanto, ti ricacchio con 35 euro, te ne esce dagli occhi la roba, tutto compreso, poi la cosa più bella è l'eleganza del posto, la pulizia soprattutto, tu entri nei bagni e dici cacchio, ma neanche a casa mia io ho un bagno del genere, queste cose, queste rifiniture, e poi è bella, se vai con bambini, ragazzi, c'è il parco, c'è un giardino grande all'ombra, proprio bello, poi fanno anche di lì a Capodanno, fanno delle feste, e io di lì ho mangiato due volte la pizza su ordinazione, però la fanno solo la notte per persone limitate, ti posso dire chi non l'ha mangiato, io l'ho mangiato in tutti i modi la pizza, però la pizza di quelli lì è un gusto unico, è come quando mangi bastoncini di pesce e poi ti prendi il pesce fresco, quella è la cosa. E vabbè, io mi posterò a Taiso perché i miei figli sono già cresciuti troppo a giocare al parco, lì viene male, mi porto a Taiso. Sì, riprendi tu Riccardo e poi c'è Fabio il parcheggio. Avanti tu Riccardo. Ehi, allora, non per pizza, dico, però se vedi, voi siete mai andati al girasole, cioè praticamente eravamo andati con la fame, pensando che ci davano un sacco di roba, tantissima roba da mangiare, siamo usciti al ristorante come eravamo entrati, ci avevano dato proprio la roba piccola e ci hanno fatto pagare un bel, però è sempre amico cibo, non era pizza. Fabio, adesso faccio una domanda a te, visto che tu conosci Roma, Olbia. Allora, tu sicuramente ci sarei andato, io ci sono andato perché mi hanno invitato. Se volete mangiare e uscirvene dagli occhi, magari il prezzo è un ridicolo, 10 euro a persona, e puoi mangiare la roba e uscirtene dal naso. Peccato che a Sassari c'è simile, ma non è a quei livelli lì, quattro muri di Olbia. Dimmi, confermami se sei mai andato tu, Fabio. Cazzo, quattro muri, ma anche la pizza è buona. E di Gianni, non so, forse tu non sei la storia della regina, tanto per capire, sai la storia della regina di Olbia? Cioè? Delle pizzerie la regina. Allora, questi qua c'hanno altri due ristoranti a Olbia, sono di un paese del Norese, so, i proprietari, perché mio cugino vive a Olbia e lui ci va spesso, a me mi hanno portato questi amici di fuori, e se tu non ti sai regolare mangi male. Adesso quando ci sono ritornato altre volte mi regolo, poi ci saranno 10 primi, ma ti facevano dei padelloni larghi un metro e mezzo con cosa di frutti di mare, di cose in diretta, prosciutto, cioè potete mangiare quello che volete, dagli antipasti sino a finire al dolce, al vino o la bibita, quello che vuoi, il caffè, tutto compreso 10 euro, è una cosa, ci saranno 10 primi, 20 secondi, non so quanti minuti, di tutto e di più, e paghi tutto, devo farlo in diretta di lì, vedi, sta finendo il piatto degli gnocchi alla cosa, alla sarda, tu dopo due minuti ti portano di nuovo nel coso, ce n'è di tutti e più, self service, dimmi tu Fabio. Sì, capa, Gianni, praticamente una quindicina anni fa mi ha iniziato a scalare il mercato delle pizzerie a Olbia, ne ho preso una di pizzeria, l'ha fatta girare molto bene, tutti i bassi, prodotto buono, e poi entro a replicarla in un'altra pizzeria, in un'altra, ne ha avuto 17, ti rendi conto cosa vuol dire avere 17 pizzerie partendo da zero? No, ma detto, ma il locale è una cosa spaventosa, ce n'è uno dove sono andato io, ci saranno 500 coperti, e dall'altra parte è ancora più grande, quando aprono il sabato sera, io sono andato sempre a pranzo, è una cosa spaventosa quanto è grande, la gente che ci va, poi una velocità, cacchio, cioè non manca niente, cioè ti taglio davanti a me tagliandomi le cosce del prosciutto crudo di Parma, sono San Daniele o cosa era, poi meloni, angurie, crema bruciata, cosa cavolo non c'era, poi l'ultima volta che sono andato c'era un pentolone, sono andato un metro di diametro, se non di più, cotto di lì in diretta davanti a tutti, cucinando questo riso alla pescatora, con tutti, mettevano, ci sono stati 50 kg di riso dentro, con tutti i frutti di mare, di tutto di più. Quello non ho neanche mangiato perché ho mangiato gli altri 5 primi che c'erano, poi non parliamo tutti i tipi di varianti di frutta, cosa cavolo non c'era del nostro. Sì, campa, però questi campano perché ci sono anche le persone come me, perché io mangio pochissimo, e perciò per me è uguale, è che quando sta quella roba davanti si un po' dice ma cosa mangio, mangio questo, poi alla fine finisco a fare tipo 3 assaggini e sono sazio. No, la prima volta che mi hanno invitato per non fare il fighetto, c'era il primo, io mi ho preso il primo, allora seguiti qua, siccome quando ti invitano per volte ti tratti, ho mangiato il primo e un secondo e basta, e mi sembra un dolce. E poi ho detto, ma qua ti puoi mangiare quello che vuoi, infatti mi sono imbottito con i primi e con il secondo il buco, ma sono tante varianti, invece quando vado adesso inizio dall'antipastino leggero, prosciutto, formaggio, cose del genere, assaggio un po' di tutto, funghi trifolati, melanzane fatte in un modo, quell'altro, pomodori fatti arrosto, melanzane, cioè tutto, adesso assaggio un po' di tutto, poi mi prendo quattro primi, questo è fatto al forno, gnocchetti non so cosa, e pennelli fate un'altra messa, già 3 o 4 di primi, 3 o 4 di secondi e poi il dolce che non deve mancare, però piccoli assaggini in modo che mangia un bel però variegato. Scappa, ma Orche New East ce ne sono un bel po' in giro, La cinese che fa Orche New East, lì ci può andare di casino, mi sembra sempre con 10 euro, 11 euro, e praticamente ti puoi anche bere quello che vuoi. E lì ti puoi traffare tutto quello che vuoi. Allora la cucina sempre tirando e ne esci come al solito che hai mangiato troppo anche se non vuoi mangiare e non devi lasciare roba nel piatto. No, hai ragione Fabio. Hai fatto cambiare segnale? Ti sei abbassato un bel ricca. Registrato. E poi a Sassari, non so se siete andati, scusate un attimo, così concludo. Al civico siete mai andati? Allora, se avete tempo andateci, però di lì è un problema, soprattutto il sabato è un problema, il sabato e la domenica è un po' complicato. Di lì costano, ogni pietanza costa di media 2 euro, 1,50 euro, 2 euro. Ti danno dei piccoli assaggini, per dire, ti fanno la cucina varia, ti danno 6 cose, per dire, un pasto, sono 6 pietanze piccoline, piccoli assaggini, per dire, ti danno un po' di fave, tipo, non fave, quelle che mangiano a Terrenzi, come si chiamano, fagioli con messicani, fate non so che cosa, te danno una vaschettina piccolina, poi ti danno le cose di pecora, come si chiamano, non mi viene la parola, di pecora, io non le mangio di quelle roba, però ti puoi scegliere tutte le cose, pure l'umaca, fatto, e ci sono 6 tipi di cose, di pietanze, quando dicevo assaggi tutto e ti dai un bel pranzo o una bella cena, poi se vuoi quello più corposo ce ne sono da 8 e da 10, diciamo ogni uno di questi cose costa mediamente da 1,50 euro a 2 euro, diciamo, e mangi bene veramente. Avanti il break. Ciao, ben sentito Claudio, compagnia mia di Riccardino e Tonino, che lo faccio riprendere adesso, che è un po' in parcheggio, poi Claudio Lupio Room e Fabio Mazze. Di nuovo Tonino a te. Ah, ok, grazie. Ciao, chiudo regista, ben sentito. E io ne ho approfittato di farmi, insomma, già per gelato. Allora facciamo l'altro, avanti già. E mani avanti, vicinati. Ciao, chiedo a Ruggito, poi sentite anche a te, stiamo parlando di roba buona veramente, non so se ti piacciono i frutti di mare, a te. E poi che si mangia veramente bene, però diciamo è un pochettino più costoso quello che c'è a Sennori, Vitto, cacchio, anche lì ci dà da fare, quando dice fai tu ti dà un po' di roba da mangiare. Vitto la gazzosa. Non lo so come si chiama di soprano, ma è Vitto, comunque all'ingresso di Sennori, quel locale bellissimo, anche lì si mangia roba di mare, però di terra non lo so, io ho mangiato tutto roba di mare. Sì, prima era dentro Sennori, poi si è trasferito prima di Sennori, sulla sinistra, che è rossiccio al caseggiato. Andiamo a mangiare ai cinesi tu? No, meglio usa. 18 euro e mangi così, se servizio, come ha detto Roberto, ci sono cuoci di topo, poi ci sono costine di cane. Tu stai scherzando già. Io faccio prima. E proprio del divino, c'è un barbecue, come sta cucinando carrozzi altro che cinesi. Adesso noi stiamo scherzando, lo sai che stanno entrando già nei supermercati gli insetti, non so se li avete già mangiati. Che schifo. Io non li ho mangiati e non li mangerò mai. Allora, io adesso a vederli mi fanno schifo, però siccome la popolazione mondiale sta aumentando in modo spropositato e ce ne sarà sempre di meno da mangiare, l'unico alimento che ti permette di avere quella quantità rispetto alle dimensioni di calorie e di proteine, diciamo, necessarie per la sopravvivenza umana sono gli insetti, da iniziare dagli, per dire, non dico gli scarafaggi, diciamo, sino arrivare ai volatili, gli insetti che volano, abbiamo cavallette, grilli, eccetera, eccetera. I miei nipoti gli hanno dato le patatine a paprika con le cavallette dentro, le cavallette al paprika, e se le hanno mangiati, allora piccoline erano, fatte col paprika, fatte tipo arrosto, come puoi chiamarle, messe sulla cosa in padella, secche, bagnate di paprika, lo sai come si devono mangiare, tu le devi mangiare gli schifosi, i ragazzi di adesso mangiano queste schifezze, da quello cocco, quando ho accompagnato alle due mie figlie, hanno pagato 25 euro a testa per mangiare Mondezza, il sushi o cosa cacchio è, di Mondezza, mentre la Blackstone, un piatto composto, con calamari che ti escono dal naso, con patatine fritte e insalata a 12 euro. Ehi, sì, conveni, andiamo alla Blackstone allora, dai. No, io preferisco mangiare una pizza, roba, sinceramente, che mangiare lì. Qualcosa già la mangio. Allora io quando vado lì al sushi prendo le anguille arrosto, i cosi fritti, come si chiamano, i gamberi fritti, quelli che sono nello stecchino, tutti quanti filati tipo spiedo, prendo pesce, tipo, se ti posso dire, anche il pesce crudo, però mi nausea, come lo mangio mi nausea. Io tra poco vado via, no, già, io una volta sono riusciti a convincermi ad andare, ma proprio andiamo, là, tutta la compagnia, tutti eravamo fidanzati ancora con tutti gli amici, una greffa, cazzo come sono entrato, ho detto, entrate voi, io me ne sono andato, ma non male, per non fare brutte figure non c'era posto, se no gli ho detto rimanetevi voi, io me ne vado, non l'odore solo a me mi nausea. Adesso visto come si sono attrezzati, in ogni tavolino c'è un terminale tu fai l'ordine e arriva direttamente alla cassa. Ah, non so, anche quello che c'è ai break è la stessa cosa, il sistema, diciamo, del futuro stile americano. Però ti posso dire una cosa, già noi abbiamo la cucina più buona nel mondo, invidiata da tutte le parti, io ho amici di tutte le parti di diverse nazionalità, la cucina nostra ce l'invidia tutto il mondo, è la più sana di tutti, per cui a casa vado a mangiare tartarughe o cavallette o cose di altre parti. Quindi l'unica cucina che si può mangiare secondo me è quella spagnola, che è molto simile alla cucina italiana. Ecco la messicana per chi ha il palato che riesce a resistere, perché è troppo, però tutte le altre me le puoi far vedere originali, così le cucine, quelle germaniche, francesi, mamma mia, lascia perdere. Mi ricordo quando siamo andati fuori una volta, siamo andati in questo cacchio di ristorante in Austria, cosa cavolo c'era, ci hanno portato i crauti che li mangiano tutti, poi una brodaglia che solo a vederla mi faceva schifo, al posto del pane c'era tipo pane carrasau, alla fine mi ha mangiato tutto il rumane che me l'hai chibi, e un pochettino di cos'era, di belga, di insalata belga, era una cosa, mamma mia, e poi pure ci avevano di lì, questo era allora, è il Wuster, il Wuster Gigante, il Wuster Gigante erano buoni, e buh, ci avevo più fame di quando sono entrato. Sì, ma il Wuster non rimane nel ristorante, non rimane in un panino che mangiare, però la cucina un po' strana, qui c'è gli americani che ti fanno di chi ci panini, che sta a tre piani, uno sull'altro, i panini di quelli enormi, che però forse sono tutti quanti obesi la vita. Ehi, ma Renato, quando ti fai il triplo strato, c'è un panino che pesa più di 10 kg, che costa una novantina di euro, ci mangiano 6 persone, è grande, sarà 50 cm di diametro, anche di più, forse anche 60, se lo fa fare apposta il pane, e lui ti mette di tutto e di più dentro, poi te lo tagliano, cioè te lo porti a casa, pesa una decina di chili, finito, se cercate le foto, ci sono le foto, e ci mangiano 6 persone, è un panino spaventoso. Cos'è il taicho? No. Non c'è, quello te lo fa come vuoi tu, allora tu per dire vuoi il capriccio, lui ti fa questo panino, però solo su ordinazione, quando c'è un compleanno, qualche festa particolare di laurea e tu vuoi fare una cosa originale, anziché la torta ti fai questo panino, cosa per descriverlo? Un cerchione di macchina, ce l'avete presente? Un cerchio da 13 pollici di uno, di panna, allora, un cerchio così, però alto 30 cm, 40 cm, e lui ti mette quello che vuoi tu, per dire vuoi il capriccio, il taiso, l'ombovo, qualunque panino. Oppure te lo fai per dire uno strato di capriccio, uno strato di taiso, uno strato di cotolette, l'ultimo è tutto quello che vuoi, e costa il piccolino, quello che sarà 40 cm costava 60 euro, quello grande 90-95 euro costava, però ci mangiano 6 persone, te lo tagli con un coltello di quelli tipo anguria, quelli grandi, e te lo porti a casa, ti dà un contenitore per portarlo, e questa è la cosa originale, anziché per dire fare la solita pizzata oppure fare cosa tipo su di una torta, quando c'è qualcosa, soprattutto d'inverno, quando c'è più caldo. Forse una cosa del genere è una cosa un po' originale. Sono più originale, non basta io. Tu dici un panino, ma è un coso, ti ho detto un copertone di macchina, un cerchione di macchina. Ok, facciamo prendere a tu. Cappa, sì, ci ho messo anche io volte qualche panino, da Renato, che è roba su. Tu pensi abbiamo preso un bel paninazzo, poi anche la moschetta e patatine. Lei ci credi che ho stuzzicato le patatine e il panino ha mangiato solo due morsi, io non ce l'ho fatta più. E poi ha aumentato. Il panino da 3,80 l'ha portato a 5 euro il capriccio, mentre il fratello lo fa ancora a 3,80 euro. Era 3,50 adesso l'ha portato a 3,80. Il fratello Roberto che è identico, il panino è preciso, lo stesso pane, lo stesso, tutte le cose che comprano lo stesso posto le comprano uguali, il panino è identico. Roberto è il fratello di Renato ed è via Napoli all'inizio, scendendo sulla sinistra. Ok, beh signori, io però vi devo lasciare adesso, che è già un po' tardino, saluto a tutti in ordine, Gianni Doppio Rum, Riccardino, Tonino, Fabio si è rientrato, non so se scusate, c'è Claudio da Murno, aspetta, ciao, facciamo riprendere a Claudio, sempre mi dimentico, avanti Claudio, scusa. Cappa rientrato. Cappa, va bene, ciao Rum, ci sentiamo, avanti Fabio. Non faccio niente a questo cavolo di microfono. Salutoni Roberto, ci sentiamo presto, buon coletti, buon tutto. Alle prossimine. Riccardo per i saluti. Sì, ci sono anch'io ancora. Ciao Claudio e Roberto, e alle prossime, buona carica pupile quando la fai. Invece a proposito, volevo salutare a Claudio, visto che non l'avevo salutato prima quando era entrato. Ciao Claudio. Ok, grazie. Giorgetto. Ciao Roberto, buon corretti e buon trabacco per domani. Va bene. E tu c'è poi il parcheggio per Riccardi, come mai? Boh, non lo so, no, mi fate riprendere, io sono qui, intanto che sono sempre in cerca di qualcosa, sapete chissà che cosa. E che cosa dice la noi, dai? Io un gelato me la sono mangiato, poi. No, ha parato. Niente, c'ho una pastacetta nel freezer, mi sono mangiato un croccantino, dai. Poi c'ho cornetto, biscotto, tipo magno, ne c'è un po' di gelato, ma sono la scorta. Già, così ci fammi, doppio. Gianni, mi è rimasto alcune bocche e non risponde, poverino, che non può mangiarne. Salutoni, chiodo, non potete far salutarti. Salutoni anche da questa, ma io non ho fatto niente, la mia antenna probabilmente, o il mio guarattino che ogni tanto decide di essere splendido, capito? Oggi voglio fare un padrone di Atanca, ma posso riuscire con 3,5 e c'è con 4,5 e il microfono magari gli dà corda e viene fuori questa modulazione, sei contento? Comunque adesso se te lo posso chiedere cosa stai usando che mi sono perso? Sì, tu Cla. Ho capito, sì, l'ho visto quello bellino, quel baracco. Ma io mi sono un po' fermato, se trovo che salto le pizza, un altro me la prendo. Il resto va bene così. Tanto, sempre un canale usi il 10 di solito. Quindi. Vediamo se Gianni è entrato. Gianni, ma Gianni si è parato. Andare. Avanti Fabio. Io mi faccio dei complimenti da solo, però se mi vuoi fare anche tu i complimenti, perché sono riuscito a togliere quelle viti, a chi credi? Questo passaggio non ti ho copiato bene. Aspetta che mi alzo un po' di radio, magari arrivo un po' meglio, vado a dire un po'. Magari così è come giù in radio. Senti meglio così. Avete comprato molto basso, a livello QRM è proprio. Se sono negativa per me niente di strano, Altre volte ti ascoltavo meglio, oggi non lo so perché. Negativo, non mi accorgi. Claudio invece arrivo meglio così, Da te sta arrivando meglio del solito, così è. Campa, a toccare gli apparati in uscita, ogni volta si sbilancia la ricezione, capito? Quando tu dici, vai, alziamo un po' la modulazione, dai, andiamo in finale, facciamo la modifica, e dicendo, succede che l'apparato poi in ricezione non va più bene come prima, c'è poco da fare. Campa, questa è una radio, l'altro è un apparecchietto. Secondo me, poi c'è chi lo esalta, ho visto la 48 in vendita a 500 euro con le modifiche, quello che vuoi, ma quello che stai usando adesso è un apparecchio, a mio parere, molto serio, molto molto, ha un modulatore che è fenomenale, ha un'uscita, un bilanciamento sull'uscita che è ottimo, ha dei filtri molto interessanti, l'altro è un veicolare che nasce con i suoi limiti, anche se lo modifichi, se gli fai tiri e molli, purtroppo è fatto in una certa maniera, non puoi cambiare il funzionamento degli stadi, capito? I blocchi rimangono quelli, non hai qualcosa in mezzo che ti lavora in una certa maniera, questo è un apparecchio molto serio, infatti quando tu usi questo ti sento benissimo, sempre. Come detto, è bello quell'apparato, speriamo in tempi migliori a prenderti quello un pochino più avanzato di quel Summer Cup, perché l'ho visto ed è bellino anche quello. E sì, già lo so comunque che quello costa un pacco di soldi, costa, si trova 700 euro, quanto è, quello che mi sembra solo il display in aggiunta lì. È sempre bellino, spero che se lo potrei prendere, perché mi piacerebbe anche a me. Ti ringrazio perché mi stavo addormentando, che domani mi alzare molto presto a fare tante cose. Già è vero che mi alzo alle 5 di mattina ogni mattina, però domani è particolare la giornata. Ok, dai, buon proseguo. Ciao Chiodo Regito, ciao Riccardino, ciao Fabio. buon proseguimento, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao Torino, buonanotte. Ti ha chiamato poco fa, sei sparito. Devi morire Tony, devi lavorare. Pezzo d'animale che ha detto che devo morire, devo lavorare. Non devo lavorare, domani devo trombare, mi ammazza per il centro. Ciao, ciao a tutti. Ciao Gianni. E anche a Riccardino. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao Fra, Tony, lo sai che io un'ora, a una certa ora vado a farmi l'iniezione. Vabbè, io niente, sono chiamato a risposto. Ma ho prescritto, devo prendere un'amica domani, una tua amica, e quindi me la portare a casa. E devo dare molto presto la andare, ecco, sono già fuori di. Ci sentiamo, ciao, buonanotte a tutti. Stai calmo, se no prendi i colpi da quello che c'è a fianco. La mazza! Ma com'è il giocatore di canti? Cappa Torino, io ti saluto anche se non mi senti probabilmente, ma annuncio anch'io il mio QRT, perciò saluto i Gianni, saluto il Tonino, saluto il Chiodo. E poi Gianni? No, saluto il contratto che purtroppo. Non fai l'acceso. Ciao Riccardo, me l'ho ascoltato anche a te, non so con chi stavate parlando. Avete sovramodulato a Fabio. Ehi, hanno sovramodulato, scusate, anch'io annuncio il mio QRT che sappiate ogni sera c'è la signora Carriola che aspetta di portarti gli apparati dentro e ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Buona carriolata, ciao. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Ciao ciao. Ehi, ciao Tonino, ciao. Riccardo, ma la carriola, perché? Non mi risponde, forse ha attaccato Riccardo. E me Gian? Perché c'era Claudio Damuros che stava parlando. La carriola perché ho un sacco di apparati nella mia postazione che è fuori casa e dentro il garage e quindi ogni sera devo portare tutti gli apparati dentro. Che cavolo! Lasciane uno allora che... Uno che vada bene e gli altri lasci dentro. E caspita, se tutte le sere devi fare questo lavoro, allora diventa un lavoro fisso. E siccome devo fare tanti viaggi Riccardino, avevo detto prendi una carriola, fai prima, vero Riccardino? Sì, hai ragione Tony, mi è piaciuta subito l'idea. Un camioncino. Dopo lasciami tutti i graffiati a Parigi. Brava, un attimino bene. E io. Vabbè, continuate, ciao ciao, buonanotte, mi ascolto per un po' e poi chiudo. Ehi, ciao Tony. E comunque, caspita, ma dove andiamo a lavorare? Non sei in pensione? Non devo andare a tabaccare, devo andare a prendere l'amico domani. Ma lascia perdere queste cose, che, vale, stai raccontando a uno, non va niente, no? Guarda che ci vuole ogni tanto, bisogna cambiare. Attento, mi pigli i colpi. No, ne, silenzio, che domani devo fare tante cose belle. Ti auguro tante cose belle allora. Ciao, ciao, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, Tony. Bello. Ah, sì, vabbè, stai chiudendo, stai, dai, Riccardo. Riccardo, ci sei? No, che la tua. Che è rimasto? Nessuno già, tutto andato Genesio. Cosa facciamo? La prendiamo Bruno? Se noi chiediamo la storia, io no, veramente sono salito a vedere se c'avevo la cosa accesa, infatti c'avevo la cosa accesa e per spegnerla e ho sentito voi, sono entrato. Ma ti ho lasciato l'apparecchio qui si è acceso? Non ho capito. Ti ho lasciato l'apparecchio acceso? No, sono il computer e non l'avevo lasciato acceso. No, questi erano spenti, l'ho acceso adesso questo. Uh-huh. Vabbè Fra, io sono abbastanza stanco, ho cominciato stamattina presto perché sono andato a fare le analisi, sono arrivato alle 7:15, l'apertura era alle 8 e c'erano già 21 persone. Ah vaccia, per carità che casino è andare a fare. Lo vedi al Conti? No, le ho fatte alla LAS, quello di via Umberto, che c'è sempre poca gente. Ma per fortuna si sbrigano in fretta, sono in 4 o 5 che ti fanno i prelievi, quindi si sbrigano in fretta. Capo, noi ce l'abbiamo anche qua, adesso ce l'abbiamo, però a quanto pare qua devo prendere un appuntamento, prendere l'appuntamento per farti gli analisi, poi ti danno il giorno, l'orario, ti danno tutto e devi andare quando dicono loro. invece vado al Conti e vado la mattina, in giro di 2 ore ho finito. 2 ore? Io sono stato per le 7:15 e ho finito alle 9:15. E vabbè, siamo lì, 7:15, 9:15, è sempre lì. Dipende dalla gente che trovi davanti. Poi c'era addirittura Pudi, uno che ti faceva entrare i numeri a uno a uno, i primi 12 numeri uno dopo l'altro, dicendogli di sedersi e di aspettare quando usciva il numero al tabellone. Poi gli altri 12, man mano che usciva uno, faceva entrare l'altro. Fino a quando ne ho fatto entrare io avevo il 21esimo. Nel secondo scaglione sono rientrato, quando sono uscito fuori per l'umore. Me lo immagino, vabbè. Io ci devo andare sempre che non mi chiamino prima. Io ho dal diabetologo, devo andare il 30. Il 30 del mese entrante devo andare. Prima di andare devo fare gli analisi, una settimana prima. Invece a me di diabetologia, quando sono andato, mi hanno detto no, non stiamo ricevendo adesso, lei adesso fa le analisi a giugno e poi ci telefona che diamo l'appuntamento. Così ho fatto le analisi stamattina a telefono, dice ma non stiamo ricevendo ancora. Ma se non fai male di fare così, perché mi permiere questo? Perché mi sta dicendo che non state ricevendo? E allora chiami il dottore martedì e parli con lui. Io adesso, se loro non mi chiamano, io faccio gli analisi e poi mi presento là, poi vediamo cosa succede, se non mi chiamano. E se mi chiamano, aspetterò quando mi diranno loro, come hanno fatto per la a San Camillo, per la cosa della, come si chiama, pressione, hai capito. Quello lì mi hanno chiamato, ma dice la chiameremo noi. Va bene, aspetto. È tutto un casino, adesso quelli del centro diabetico li stanno trasferendo tutti quanti a San Camillo. E vabbè, io non sono qua a Sassari, sono a Alghero. E come mai? Perché quando ho preso l'appuntamento non c'era posti, nessun posto né a San Camillo né a Sassari, da nessuna parte. L'unico posto che ho trovato è Alghero, all'ospedale Marino. Ma tu sei diabetico perché? No, però sono sotto controllo. Ah, ma qualche cosa che te l'ha fatto pensare? Sì, secondo loro c'ho qualcosa che fa pensare che sto lavorando in diabete. Allora non bere alcun. Loro ci hanno preso il sicuro, ma ce lo mando, lo mandiamo lì a meglio prevenire che curare, mi ha detto. Ma curva la carico l'hai fatta la prova? No, niente, non ho fatto niente ancora. C'è per quell'esame la curva la carico, perché ci ti fanno bere glucosi a tutta andata. E dopo ogni mezz'ora ti prendono il sangue per vedere se il pancreas ha assorbito di tutto. Per carità, me l'hanno detto, ce l'ha fatta mia cognata, l'ha fatto quello lì. E dice che gli hanno dato questa roba dolce, ma dolce, che è una cosa tremenda. E poi prendeva questo sangue, non lo so, me l'ha detto, e gli mi ha detto, che a me la roba dolce non piace. Allora, l'esame è così. Dura 4 ore in tutto, totale 4 ore, ogni mezz'ora ti danno da bere il glucosio, all'inizio pari Coca-Cola, dopo però ti nausea, perché quando ne bevi molto poi alla fine ti nausea, e ogni mezz'ora ti fanno il prelievo del sangue a vedere se ti ha servito il padre, se si è servito di tutti, poi ti mandano a fare colazione, e poi ti fanno tornare per vedere se hai servito di più di quanto per colazione. E insomma è un esame un po' rottura di scatole, 4 ore. Sino a oggi a me non mi hanno detto niente di fare questo, mi hanno solo dato una dieta, dicendo che di peso e basta. Dice lì ancora non gli do neanche la pastiglia, mi ha detto, perché non è a posto. Non so il medico come ha fatto a descriverlo, però mi tengo sotto controllo loro e ogni tanto quando mi dicono di andare io ci vado. Ma l'unico esame per vedere se sei a posto è quello, come ha fatto a dire che sei a posto, vabbè. L'unico esame che si può capire se sei a posto oppure facendo, pungendo il dito e facendo prelievi al sangue e facendo la misurazione con il USB e con l'Urcomet. Ehi capo, quello me l'hanno fatto, il dito me l'hanno fatto, quello me l'hanno buttato con un lago e me l'hanno bigliato il gorgo, quello lì e basta, del resto non mi hanno fatto mai niente. E ci sono già 1, 2, 3, 4, quasi 5 anni che mi presento a fare queste visite. Ma non voglio metterci lingua, io non sono un dottore, però ci sono in mezzo e lo so come sono le cose. Praticamente magari c'è un sospetto, però quando c'è un sospetto solitamente ti fanno fare quell'esame, a meno che tu non ce l'avessi molto alta, allora sì. Ma non posso dire niente, io più che quello che dicono loro non posso dire, vediamo come va a finire. Io sto bene, come cosa di diabete non penso di averne, però c'ho solo la pressione alta e basta. Io ti auguro di non averne, che è una brutta bestia. Purtroppo il diabete non ti rendi conto quando ce l'hai. A me me l'ha scoperto il medico del lavoro, mi ha mandato una lettera con la scritta urgente. Mi sono bucata di sopra. Mamma mia, sono andato in ufficio. Sul lavoro è un casino. Poi specialmente quelli sono bastardi, quelli vabbè, secondo me scrivono quello che gli dicono i capi. Sì, sono molto accordati visto che li pagano loro. E appunto bariscio, infatti vabbè, facciamo perdere certe cose perché a Marco gliel'avevo detto io di non presentargli i documenti dei problemi suoi. Invece lui era fatto pensando di andare bene, è andato più male, l'hanno buttato subito fuori. Casino. Ehi vabbè, adesso si prenderà una pensione. Ehi vabbè Marco, però Gianni, però non è come prima, perché è inutile prendere una pensione che ti danno così come vogliono loro, e mentre lavorando potresti farti i contributi tuoi e andare in pensione regolarmente. È quello già è vero, però se uno non ce la fa più, Marco gli si stava gonfiando il piede, sempre si faceva la viola, non riusciva manco a muoverlo, io lo so perché c'è, sto con Marco, lo so. E dillo a me allora, che ci lavoravo insieme a lui, non riusciva neanche a alzarsi dalla sedia ultimamente. E quindi non poteva fare altro, cosa faceva? Andava a lavorare così? Cazzo, ti rubi di gonfie, ma tu lo sai che cosa vuol dire quando si parte del viola? Che la circolazione del sangue è bloccata, non sta circolando bene il sangue. Lo so già. Oggi c'ero quasi 2 ore parlando con lui, con Marco. Infatti gli ho detto qualche sera vengo, andiamo, facciamo visita a Gianni e a lui me ne vado. Noi eravamo insieme stamattina, siamo usciti, siamo andati al carrozziere, abbiamo toccato la macchina, siamo andati al Filippo insieme, il Filippo era un amico mio. Capo, me l'ha detto, già me l'ha detto, era un bel po'. E i ventenni dei tempi, i tempi che furono. Purtroppo non si può più tornare indietro. Anche per me è stato così, è stato un fulmine a senso nero, ok? Ma mi interessa che stare bene, quindi a chi se ne frega di su. No, ci mancherebbe altro. L'importante è la salute, pure del resto. Questo già si avvicina, diciamo che i soldi sono importanti, perché sono molto, in una famiglia sono molto importanti, però la salute è anche ancora meglio dei soldi. Diciamo che io sono riuscito a tirare, perché anche io non è che, diciamo, io sono governi al disco che ogni tanto mi blocco, adesso non mi sto bloccando più da quando sto lavorando, ma quando stavo lavorando non c'erano mesi che non mi bloccavo, mi troppo di neanche Marco, mi mettevo in malattia perché non ce la facevo proprio a lavorare, perché io facevo un lavoro proprio straziante. Io ero 8 ore fisso su un carrello elevatore, su un sedile di un carrello elevatore, tutti i giorni. E prima non erano così i carrelli, prima erano che i sedili non erano ammortizzati, invece all'ultimo, gli ultimi anni, saranno 2, 3, 4 anni che avevamo quelli proprio i roni, che avevamo ammortizzati, ma prima la schiena ce l'ha rotta veramente. Io non ho 8 ore, però lo usavo il carrello elevatore, gli usavo traspalle elevatore, il carrello, il coso, proprio il muletto, e ce l'avevamo elettrici, ce l'avevamo anche grandi, i muletti. E niente, io ho sempre usato, mi caricavo il camion, le pedane, con il muletto, tutto io facevo, scaricavo il camion. Sì, già, ma uno è starci 2 ore, 3 ore massimo, e uno è starci 8 ore fisso sopra. Sai cosa vuol dire 8 ore fisso? Tutti i giorni, perché il mio lavoro era quello lì. E quando aveva problemi Marco dentro, entravo dentro, era peggio, perché non mi prende, il ballo era 30 kg in mano. E Marco le prendeva sempre, se ce doveva posizionare sulla pedana, se non sbaglio, quello che ho capito. Certamente, vale da 30 kg, sono 30 kg, ma non solo una volta, ma quando le prendi continuamente, quando secondo la macchina che si sfasciava, si rompeva, era un casino nero lì dentro, era un casino. E guarda, io non per cosa, però ti dico una cosa, quando ce ne siamo andati noi, che sapevamo lavorare, quelli che sono entrati ultimamente, che non sapevano neanche cosa era, li stanno ammazzando quelli lì, gli stanno fermando gli impianti, li stanno fermando, perché quando succede un casino non sanno usare una puritenatrice, non sanno usare il palettizzatore, non sanno usare un cavolo quelli lì, non sanno usare, quelli bloccano tutto, non ferma tutto, e l'impianto è sempre fermo, e quando succede quello, cosa succede? Che l'azienda madre ti chiama, no a noi, chiama i capi, e gli dice, oh, ma non siete combinati? Beh, c'è la cosa, loro avanti, normale, si vede che si è fermata, ti chiamano sì. Poi siete una cooperativa che lavora per l'azienda madre, così. Certo, è una cooperativa che lavora per un'azienda abbastanza seria, lavora. E gli accordi, quando li prendono seriamente, quindi noi dobbiamo fare questo, e dice questo devi fare, ma lo devi portare bene quello lì, non devi mandare gomma inquinata, non devi mandare questo, non devi mandare quell'altro, guarda che è un casino nero. Io prima di andarmene in pensione, mi hanno chiamato da, sono venuti da Bologna e mi hanno messo dentro un ufficio e mi hanno chiesto perché in tale giorno sono passate delle palle di gomma, dei pani di gomma inquinati con le macchie nere. E io, cosa ne so io? Io faccio il carrellista, non faccio l'operatore, gli ho detto, faccio il carrellista. Sì, ma in turno c'era lei, Luigi Francesco, mi ha detto, e Marco Nuvoli. Ha giurato, sì, Marco Nuvoli era l'operatore e io ero, sei tu, carrellista, ed ero il magazzino che lavoravo, non potevo vedere dal magazzino a qua le balle inquinate. Sì, ma signor Nuvoli non c'è, chiedete a lui, non lo so. Si sono girati al capo e gli hanno detto, ma il signor Nuvoli dov'è? Il signor Nuvoli dice non c'è più. Io non lo so pulire. E se la volevano prendere con me, intanto mi hanno tenuto 3 ore lì interrogandomi. Cos'erano queste macchine inquinanti? Che cosa erano? Gomma bruciata. è inquinamento quello, capito? Gomma bruciata. E allora l'inquinamento significa gomma bruciata. Diciamo inquinamento da corpi estranei, che sarebbe che dentro a quel pane di gomma c'era, per dire, un pezzo di ferro, un pezzo di plastica e qualsiasi altra roba, corpi strani, quelli lì. E se no gomma bruciata, degradata e gomma bruciata, la degradata è gomma bruciata, che è andata a finire in quel pane lì. Allucinato. E Marco, lo sa questa cosa che l'avevo cercato? Certo che lo sa, no? Me l'ho detto io, glielo ho detto, e l'hanno anche chiamato a lui, l'avevano anche chiamato, l'ha detto, c'è una casuolina, in poche parole, a girare, glielo. Ma così l'ha detto? Sì, non gli avrò detto, non gli avrò detto, ma sicuramente l'avranno capito. Ma tu pensa, se questa roba inquinata è al centro della palla, come cacchio fai a vederla? Al centro non la vedi, ma se all'esterno non la vedi. In effetti era all'esterno, le fotografie erano all'esterno. Ah, ecco. No, io lo so, lo sai perché? Perché noi facevamo, raccoglievamo le bottiglie di plastica, no? Poi andavano in questa tramoggia, che praticamente le pressava, faceva le palle, poi andavo, svoltavo le palle, si metteva un carrello e si riempiva questo carrello con le palle, io lo facevo altro che legarlo e portarlo pure a mettere quello nuovo, quello svuoto. E a volte c'era anche altra roba, mezzo alle bottiglie, mettevano bottiglie con urio, eccetera, eccetera, data io. Allora curava le prima di rampazzini. Purtroppo a volte non ci fai caso e li butti, dai, e ce li butti. Ma diciamo che io, guarda, se a Marco l'hanno chiamato, non lo so se l'hanno chiamato, glielo ho detto io a Marco anche stasera avevo parlato, se l'hanno chiamato non lo so, però hanno cercato dappertutto. Non l'hanno trovato giù, ma l'hanno cercato dappertutto, quelli di Bologna l'hanno cercato. Infatti dice, dov'è il signor Luvoli? È arrivato Dorra, allora ho chiamato il mio capo, e gli ho detto, dice, glielo spieghi, sì, dov'è il signor Luvoli? No, il signor Luvoli dice, è stato mandato a casa perché per non violetta di lavoro, perché non poteva più lavorare perché non era idoneo. No, il medico non l'ha fatto idoneo al lavoro. E la foto di idoneità, come l'ha fatto con me? Addirittura hanno scritto, malgrado la sua professionalità, non possiamo dargli altri incarichi anche inferiori. Però sono bastardi, da te hanno fatto i bastardi, perché per dire, per Marco non c'era un posto che poteva metterlo, però per te c'era il posto, perché tu da seduto potevi lavorare, come poteva lavorare anche Marco da seduto, tu da seduto in una cassa potevi lavorare, e sono stati bastardi, non ti potevano neanche mandare via. Io praticamente ho lavorato in pescheria e stavo male, perché col freddo del frigorifero mi faceva male la gamba, poi sempre in mezzo all'acqua, con la ferita sotto al piede in mezzo all'acqua, sempre, lui a sapirti, no, la cassa non ci voglio andare, no, no. Ho preferito io così, la cassa me l'hanno proposto, ti dico la verità, non sono voluto andare via. Perché non stavi bene lì alla cassa, non è che, vabbè, lo so che ci sono delle responsabilità e più, lo so questo, però un po' per il lavoro anche le responsabilità ce le dobbiamo prendere. Lo so, ma quando ti prendono i soldi dallo stipendio, che ci sono degli ammanchi e ti prendono i soldi dallo stipendio senza darti indennità di rischio, tu lo fai rischio. No, se io lavoro bene. Io lavoro bene, se poi mancano i soldi per delle altre casse non me ne frega un cazzo, l'importante è che non mancano i soldi della mia cassa. Allora, nella tua cassa ci possono lavorare 2, 3, 4 persone, dipende. Cioè, perché se per dire che si è allontanata la cassiera, sta sistemando lo scaffale, c'è l'altra, sta passando l'altro, c'è gente, prende anche la cassa. Che non sbaglio, chi lo fa? Perché non fate come fanno in tutti gli altri posti, che la cassa tua è la tua, la cassa di quello è di quell'altro, o c'è uno la cassa sua? Sì, sì, normalmente è così, però se per dire c'è bisogno, uno si allontana, ecco, c'è l'altro che apre la cassa, capito? Non c'è problema. Non è che sì, magari c'è il nome tuo e quella lì la cassa solitamente tua, la tua postazione, però se tu ti allontani per qualsiasi motivo, interviene l'altro se c'è bisogno. E usa sempre i soldi tuoi, che hai incassato tu. Beh certo, mica fa la chiusura ogni volta, no? Poi a fine mattinata si fa la chiusura. Ma tu a Auchan, hai visto cosa ha fatto? Cosa? A Auchan, a Città Mercato, hai visto cosa fanno? Sì, sì, c'erano quell'aspiratore per i soldi. No, a parte quello, a parte quello. Allora, ogni dipendente, quando cambia, cambia dipendente alla cassa, si porta via la cassa e il dipendente nuovo si porta, sta entrando, si porta la sua cassa lì. La cassa che ho incassato, che ho incassato io, me la porto via e do il resoconto della cassa che ho incassato io. Ognuno ci ha reso conto della casa sua, ma non ci mette le mani nella mia cassa quell'altro che entra. Solitamente anche da noi è così, si fa la chiusura quando c'è il cambio di personale, si fa la chiusura della cassa, no? Ma certo che devi fare così, così non ci rimetti, se tu la puoi bene, sei tranquillo, non ci devi rimettere di stipendio, capito? Dallo stipendio di soldi, perché uno sa quello che fa. Se poi c'è quello che ruba, non me ne frega un cavolo a me di quell'altro, e quell'altro che deve rispondere della cassa sua. Ma non è così, no? Ti sto dicendo che a volte le commesse si allontanano, li chiamano su, fanno altre cose, vanno su al computer per ordinare qualcosa eccetera, e si mette l'altra, capito? Quindi non è mai... A mia sorella l'ho fatta entrare a lavorare da noi, no? Fatta entrare. E praticamente abbiamo preso 80 euro e ci hanno lavorato in tre con la cassa. E dice, perché devi solo prendere a me quando? E lei dice, io sono entrata per prendere qualcosa, perché non hanno i 1080 euro. E l'hanno in tre, e dice, ne siamo in tre, e vabbè, ma tu sei la più nuova, quella che può aver sbagliato sei tu. Guarda, ti dico una cosa, che io non sono d'accordo con una cosa del genere, perché allora, perché io sono la più nuova, e allora facciamo una cosa, quante ce ne sono state? Tre lì, due, tre, e allora in tre paghiamo, anche io raggiungo non ne pago, che se non ne pagare altro non ne pago manco io, a che cosa mi gioco se l'altra ne pura di uno? Infatti, mia sorella si è messa anche a piangere, perché... è andata lì a lavorare per guadagnare qualcosa di lì, non va bene, dai. Non va bene l'orgia, così non va bene, però le aziende serie devono capire perché, aspetta, allora io prendo la mia cassa, perché intanto nelle casse ci sono quegli affari dove ci metti i soldi che lo puoi smuovere e portartelo via, me ne porto via, l'incasso mio me lo porto via io, e poi ti do un resoconto a te, ti do l'incasso mio, poi l'altro ti incascia, ti devi dare il resoconto, no, tutto quanto a me, tutto a miscio. Non è così già, io non vedo giusto una cosa del genere. Lo so, non è questa gestione qua, è la gestione che c'era prima di questa, ha fatto questo problema qua, capito? E da lì ho detto, basta, io le tasse per principio non ci vado, non ci metto piede. Prima già andavo in casa, mi chiamavano Gianni, c'è gente, e poi mi chiamavano, e io dalla pescheria alla casa, dalla casa di scappare, io più burro andavo a passare là. Vabbè, sono entrato un paio di volte lì dentro, poi vabbè non ti conoscevo. Sì, vabbè, io ci sono una bella età di 38 anni, quindi immagina. Sono entrato un paio di due o tre volte, mi sembra, una cosa del genere, sono entrato. Poi, uscendo dal lavoro, entravo lì ai granai, se ne aveva tolto il pane e qualcos'altro, se ne è, se me ne è andato e andavo a casa, perché intanto arrivavo a casa e trovavo tutto chiuso. Ah, e fatto, veniva a prenderlo lì per andare qui a casa, anche se arrivava 5 minuti in ritardo. No, ma adesso già è un'altra cosa, adesso ha cambiato gestione, e, diciamo, la gente è giovane, gente comprensiva, eccetera. Però intanto finito il venditore del lavoro, l'ha detto che ha ritorno, che non posso più fare nessun tipo di lavoro, perché mi ha detto, lei adesso è operato, no? Fa il lavoro che fa, qualsiasi lavoro che fa, se mette sotto sforzo il femore, la protesi di sicuro ci vuole poco tempo. Dice, lui dice d'accordo che è su questo, e poi non è sicuro, perché con la protesi non si può fare il lavoro che si fa con una gamba normale. Certamente. Certamente così. E vabbè, già, cosa puoi fare, è andata così, dai, pazienza. Io ti dico una cosa, io se questi non avrebbero accettato l'impisi, non mi avrebbero mandato la lettera che potevo andare in pensione, io ci sarei rimasto ancora, sino alla vecchiaia, sino a 67 anni sarei rimasto giù, sarei rimasto, non me ne sarebbe fregato, perché ormai conoscevo il lavoro e ce l'avevo già, diciamo, mi veniva pratico proprio a svolgere il lavoro che ci avevo. Io ci avevo memorizzato tutto quello che dovevo fare, da quando entravo a quando me ne andavo, tutto memorizzato ci avevo. E io lo stesso, io sapevo già cosa tutto dovevo fare. E quando mi chiamavano a fare qualcosa in più, volavo tutto e partivo. E non me ne fregava niente. Perché il capo ci ha detto, dice, quando vi chiamano dovete mollare quello che state facendo e andare. Sì, sì, sì. Io vivo la vita sempre con tutto ciò che dovevo fare io. Facevo magazzino, scarico, consegne, e poi non mi hanno fatto mollare quello, però l'ho fatto per tanti anni. E poi le pescherie, gli scaffali, capito? E niente. Scarico merci quando non c'era, perché i magazzinieri finiva per dire a Luna, e a Luna venivano a scaricare, dove scaricare io, c'era gente che veniva anche di sera. Ecco, fatelo spiegare, mai niente, ha detto Marco, fatelo spiegare a Marco cosa facevo io, fatelo spiegare a lui, finisci la risa. E adesso lui faceva le pedane, tu le prendevi la catastata. E Maria, a catastare, lui faceva le pedane. Lui con la macchina, vabbè la macchina, lui doveva solo controllare, la macchina le riempiva e io le dovevo tutte silvare, una sull'altra a silve, da l'ultima volta le stavo facendo, prima le stavo facendo a 14 casse, poi le stavo facendo da 12 casse, l'ultimamente 12 casse, ma tu devi vedere come si camminava. Allora, ogni casa pesava 1200 kg, esatto, io ne prendevo due da 1200 kg, e sono 2400 kg sul carrello, però sul carrello a motore, lo facevo questo, a gasolio. E una volta che ci hanno cambiato poi i carrelli, ce li hanno dati tutti elettrici, tutta a una cassa, allora lì non facevo più un capo. Mi facevo massimo 6 stive, 7 stive e basta. E poi non facevo più niente. Ehi cavolo, ma i carrelli a nafta dentro non si potevano usare, si potevano usare fuori. Sì, ma noi ultimamente li usavamo, prima li usavamo anche dentro, sia esterno e interno li usavamo. Poi è arrivata una circolare che non si potevano più usare a gasolio all'interno. E allora ce li hanno tolti. Noi c'eravamo noi a gasolio, me lo ricordo ancora, io lo guidavo. Sì, mi ci arrivo. Noi, ma non la buttava via, ci pigliava pedali di pelati, di sibisati a 3 kg, tranquillamente, si più un po' di bicilettrico si ribisveglia. Lo so, tu devi guardare, però, quello che non vuol dire che è un OM e ce la fa perso. devi guardare al fianco, c'ha scritto una potenza che c'ha di sollevamento, e quello da 20, 30, da 15, da 10, e dipende quello che deve fare, capito? Io ci avevo quello da 30, ci avevo, da 30 tonnellate, era micidiale. Lo so, no, già lo so che è così, già lo so, io non ne avevo a trattare, io lavoravo anche alla Coca-Cola, facevo carrellista alla Coca-Cola, se era secca prima quando c'era la Coca-Cola. È bello, a me piace fare quel lavoro. C'ho ancora il patentino, ancora valido 3 anni. Ho lavorato alla TV, trasporti europei, marittimi internazionali, che guidavo anche lì carrello. Diciamo che dove prima si portava senza niente, si portava, i carrelli lo guidavano tutti. Ultimamente non. Quando è? Adesso non mi ricordo da quanti anni è, sono 2, 3, 4, 5, 6, quasi 10 anni in questa parte che ci vuole il patentino. Io non ne ho mai preso, ti dico la verità, il patentino. Allora il travaglio io me lo so più qua, mettevo anche le pedale del latte in alto, cazzo, l'ultimo piano, poi mi ricordo che erano 4 piani scaffati, lo mettevo l'ultimo piano. No, non ne ho mai avuto io patente, però perché facevo cose vise, non ero fisso al volento, capito? Non ero magazziniere, ero magazziniere ma facevo anche l'autista, quindi ero un mix, dai. Sì, ma non vuol dire niente, Gianni, non vuol dire niente quello. Però quando fai il corso, ti mandano a fare il corso, fai il corso per tutto, fai, e ti danno anche il patentino. Anche se non te lo danno a te personalmente, rimane in azienda, però tu sei autorizzato a portarlo, perché se ti capita che ti arriva l'ASL, come arrivava a noi quasi tutti i giorni, arrivava l'ASL, e se ti trovava che avevi bevuto, erano cavoli, ti facevano anche i chilometri, ci facevano. E era un problema. Anche se tu facevi l'autista, quando facevi il corso ti facevano anche il corso del patentino. E il patentino tu lo dovresti avere, perché adesso non puoi più toccare un carrello elevatore, un carrello elettrico all'interno del magazzino, all'interno del supermercato, anche di quelli trasfare a elettrico, basta che sia elettrico, se manuale lo puoi usare, se elettrico non lo puoi usare se non hai fatto il corso e avere il patentino. Sì, già lo so che era così, ma io l'ho sempre usato da anni il carrello. È pericoloso, perché è pericoloso, una volta lo sai, ma è già mi è successo, una pedana di latte, la dovevo mettere all'ultimo piano, se è fatta la pedana, si è spaccata in due, invece deve fare di più latte. Sono cose che succedono, la pedana marcia, oppure qualcosa, un corpo, succede, come succedeva a noi, le pedane a 1200 kg, le casse, le spaccavamo, purtroppo succede, sul lavoro succede di tutto, succede, però sempre quello, sempre, oggi non puoi, a parte che è il principale che ti dice non tocca nulla, ti viene toccando un carrello che dice boh, scendi giù da terra, vai a terra, non lo puoi usare, perché se gli arriva un controllo sono problemi, ma problemi grossi. Lo so, non è un mezzo facile, è pericoloso, sembra un giocattolo, ma è pericoloso. No, quella pedana lì non avevano messo gli europei, avevano messo quelle pedane fine, ce le presenti. Era di quelle pedane bastante che diamo noi per fare il fuoco, avere la gente a prendersi. Tanto quella lì si è crepata in mezzo, cazzo, in due. E come cazzo lo salvavi? Non ce la facevi. Prima ho cercato di tentare di traslare per farlo ritornare indietro, guardate, perché si è aperto in due, la pedana. Ho cercato di traslarlo, poi non ce l'ho fatta, agevolato tutto, preso un bugito. Calmente, indovina chi è entrato. Perché Gianni, quelle pedane così, sottili, che sono deboli, quest'anno hanno un peso enorme, perché quando c'era latte, latte alla fine pesa quando c'è una pedana. Tu le, al posto di, delle porte, al posto di tenerle tutte larghe, le tenevi a metà, le tenevi, metà da una parte e metà dall'altra, la pedana non ti si spacca, anche se è sottile. Poi se tu la tieni allargata tutta quanta al fianco, a una parte, a destra e a sinistra, la pedana non ti si spacca in mezzo. No, era centrata, ma era centrata la pedana. Già mi sapevo perdere il pedale e dopo lo sai che cosa ho fatto, mi mettevo un europale qui sotto, quando andavo per la TV mi mettevo un europale qui sotto e poi le mettevo con due pedali sopra le mettevo più in basso con l'europale qui sotto. E il capo, la seconda pedana, vai, pare essere più grosso. Sì, l'unica era quella. Però con le pedane sottili, a me, sai quanto materiale mi è arrivato delle materie prime, con le pedane che si rompevano così. Mettevo un'altra pedana sotto, li mettevo e via, è andato. Perché le pedane nostre, quelle che avevamo noi, non erano di quelle sottili, erano belle grosse, e con quelle non spacchi niente. Beh, quella porta una roba pesante, ero qui, ma anche il latte pesava la sotto. E quello era il granaro, quello lì arrivava tutto con pedane così fine, quello che arrivava la furia. Invece, per dire, la stevigante, deve metterla sull'europale, un po' più larghi, non la potevo fare, però quelli più larghi, le pedane, erano grosse, capito? Capo, va bene, dai, già, ti ho trattenuto anche troppo. Io me ne vado a letto, già mezzanotte 10 subito. Va bene, dai, qualche sera salgo, chiamo Marco e andiamo a prenderci un caffè da un amico, dai, che è vicino a voi, da Giuseppe. Ah, Giuseppe è amico tuo, quello della di Vittale. Non lo so cosa sta dicendo adesso, Giuseppe Pettinaro, lo conosci? Non lo so il cognome, ma ce n'è uno dentro l'Italia che si chiama Giuseppe lui. Capo, è probabile che, infatti mi dice a Marco già te lo può anche spiegare, è lì, vicino dietro la polizia, c'è un circo. Ah, no, allora non è quello che ti dice lui, no, perché tu che è dentro il discount, capito? Ah, no, niente. Un amico, un mio ex collega, che è anche lui in pensione, è andato dopo di me, è andato in pensione. Stavo mettendo l'accordo con Marco per andare a prendere un caffè da Giuseppe Pettinaro. E così. Una sera salgo, già chiamo. Chiamo prima cosa Marco, poi chiamiamo a te, dai. Ehi, andate con piacere, non c'è problema. Andate, ci sentiamo ragazzo, stammi bene. Ehi, grazie ragazzo. Mi fa piacere sentirlo. Ciao, buonanotte con tutto. Ciao. Chi è quest'altro pipistrello? Allora, campagna di Casalduia.